Oggi, se riesco, vorrei dire una parola sulla prima lettura, questa visita degli angeli ad Abramo e questa promessa: l'anno prossimo tua moglie sterile avrà un figlio. Questa delle donne, o magari degli uomini, perché si dice sempre della donna, ma che non avevano figli, è un tema che ricorre nella Bibbia. Questo qui di Isacco è il primo caso. Poi possiamo ricordare Sansone, possiamo ricordare Samuele, possiamo ricordare Giovanni Battista, figli, diciamo, del miracolo, figli di un intervento specifico di Dio che dà la vita a queste creature, certamente per la gioia delle loro mamme, ma ancora di più soprattutto per la missione che li aspetta. Infatti tutti questi che vi ho nominato, se voi fate passare la loro vita, hanno avuto un incarico speciale da parte di Dio. Io so di mamme che quando nasce un figlio, in particolare ho presente una mamma che ha avuto 5 figli e che dice: Don, io li ho consacrati tutti alla Madonna quando sono rimasta incinta e quando sono nati. È bellissimo questo, no? Perché la vita non è mai fine a se stessa, ma è sempre per un destino, è sempre per una missione, anche se non sempre noi siamo attenti a questo. Un po' la stessa cosa, pressappoco, io la vivo quando mi dicono la tal persona ancora giovane, la tal altra ormai ha una malattia incurabile. Io non mi trattengo dal pregare il Signore anche per i miracoli, poi il Signore lo sa Lui quello che deve fare, però io chiedo sempre così: Signore, io ti chiedo, se è tua volontà, dona ancora vita a questa creatura giovane affinché sia operaia del Vangelo. Ecco, qualcuno dice: ma sono preghiere inutili perché sono così pochi i casi di persone. E guardate che nella storia della santità non sono proprio pochi i casi in cui Dio dà dei figli in maniera un po' speciale, destinandoli a un destino di missione. E questo mi fa venire in mente anche tutte le mamme che invece tribolano, io ne sento tantissime quotidianamente, di mamme che tribolano per i loro figli, cose innominabili, figli che insultano i genitori. E il problema è che i genitori accettano, figli che alzano le mani contro i genitori, figli che spogliano i genitori dei loro soldi per i loro vizi e per... E dico, che realtà grande questa di un figlio per la vita e di un figlio anche lui per la vita e che tuttavia cammina sulla strada della rovina. Allora io vi chiedo questo oggi: offriamo questa Santa Messa non per i nostri. In genere una mamma, una nonna, un nonno pregano per i miei, i miei, i miei, i miei. Ecco, preghiamo invece per quelle donne che non hanno figli e ne vorrebbero, se il Signore volesse darne a servizio suo. Preghiamo per quelle mamme che sono tribolate dai loro figli, affinché questi figli possano incontrare la conversione del loro cuore. Preghiamo infine che per quelle persone ancora relativamente giovani che sono incamminate verso un cammino di conclusione, di morte della loro vita, affinché tutti questi entrino anche per la nostra piccola preghiera, ma niente è piccolo quando è offerto sull'altare, quando è offerto nel calice della messa. Preghiamo perché il disegno di Dio si compia in tutti, perché una vita è un'enormità.